6 dicembre del 2023, prove tecniche di trasmissione sino alle 22:30 circa. www.ondarossa.info, il nostro sito internet. Su questo sito si possono trovare le varie modalità di adesione per quanto riguarda la possibilità di sottoscrivere per questa realtà autogestita ormai da lontano 1977. Ricordiamo anche la nostra autoproduzione più nota, la Scarceranda. Si può trovare in radio e non solo. Ne parla anche questo il sito. Comincio a salutare Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo, Ernesto Panico Brusati di Panico de Palcoscenico, Antonio Zoviet di Omicidio, Maia in Umbria, un saluto a Massimo in quel di Latina, un saluto a Luca Giuoco. Saluto Anna qui a Roma, Simone Scalise di Audio Chaos, Dark Wave Calabrese, Cecilia Miraduli di Pindar. Un saluto ad Andrea Doro che ci sta ascoltando dalle parti di Salerno, Marco Mascia in Sardegna di Progetto Sonoro, Lupsi con Lucia Cagliazza, presto ascolteremo il suo ultimo album, e poi Venusi a Stramonio. Tiziano Zeno Farinacci di Pigreco a Boston, in USA c'è Des De Carlo di Violet Knox, a Roma invece c'è Mariano. Inoltre saluto Laura Spirit Crusher, Like Awake, l'Ambient Space storica anche qui di Roma. E a proposito di storia, ci inoltriamo subito nella storia dei Coil. Ricordiamo che da qualche settimana, e quindi novembre, abbiamo iniziato a parlare dei Coil, perché di novembre morirono sia John Balance nel 2004 e sia Peter Christopherson nel 2010. E lo stiamo facendo attraverso This Immortal Coil, un progetto nato proprio per omaggiare i Coil stessi. I Immortal Coil, a non confondere con i Dismortal Coil, ve li ricorderete, grande gruppo della 4D. Tornando a questi Immortal Coil invece, provengono dalla Francia e questo è il secondo album dedicato. Si chiama The World Ended a Long Time Ago. E i due brani che ho scelto questa sera è Christmas is Now Drawing Near e Fire of the Mind. some sort of sin, which many take delight and pleasure in, whose conversation God does much dislike, and yet he shakes his sword before he strikes. So proud and lofty do some people go, dressing themselves like players in the show. They patch and paint and dress with idle stone, as if God had not made them fine enough. Even little children learn to curse and swear, can't rehearse one word of godly prayer. Oh, teach them better, oh, teach them to rely on Christ, the sinner's friend, who reigns on high. E ci siamo persi nelle intensità di This Immortal Coil, in questo The World Ended a Long Time Ago, questo tributo ai Coil. Un'idea di Stéphane Grégoire, che ha riadunato intorno a sé una serie di musicisti di varie estrazioni e anche provenienza geografica, tra cui il nostro massimo pupillo degli Zoo. E dunque l'intensità di Christmas Is Now, Drowning Near, e soprattutto di Fire of the Mind, molto, molto celtica nel suo andamento musicale. E sentite Going Up, che intanto va sotto la mia voce e che ci ascolteremo la prossima settimana. E sono d'accordo con Anton Zoviet, nel senso che i Coil chiaramente sono insuperabili e qualsiasi tentativo di coverizzare oppure, come giustamente dice Giovanni, rendere un tributo, chiaramente non rende giustizia, ma qui i livelli comunque sono alti, devo dire. E appunto saluto Giovanni Lisi di Cordis Cinti Serpente, Cristiano Bocci di Chemical Resistance, Arianna Digni Lombardo di Noise Cluster. E direi, a proposito, uscito come Xena, un compendio che ci godremo presto qui a Prove Tecniche di trasmissione. Saluto anche Margherita Montoneri. Lasciamo This Immortal Coil, arriviamo qui in Italia, salutiamo Andrea Doro che andiamo ad ascoltarci con questa nuova avventura sonica dal nome Koyanis Nakoi. Lui è all'ascolto e, se vuole, ci spiega anche il significato di questo nome. Noi nel frattempo ci andremo ad ascoltare le preziose note del suo album di esordio, che porta il suo stesso nome. Are you ready to go now? Ci andremo ad ascoltare la prima e la seconda traccia per Koyanis Nakoi. Noi salutiamo con interesse Koyanis Nakoi, questo progetto di Andrea Doro, gli ipnotici risvolti che trasudono death ambient e clanglori industriali sparsi qua e là nelle tracce che compongono questo lavoro di esordio, che esce attraverso la ISEM, una nuova realtà pugliese, esattamente di Taranto. Lavoro che apprezzeremo anche nelle prossime settimane. Saluto Doriana Panico, che ci sta ascoltando proprio da quelle parti, e chissà se lei conosceva questa ISEM. Se guarda il link avrà più chiaro ciò che dico. E saluto Francesco Cornello, che invece è a Bergamo. A Mentana abbiamo anche Alessandra, ormai fedelissima di questi spazi. Rimaniamo nel campo, diciamo, degli artisti emergenti, le possiamo anche definire ultime leve della sperimentazione italica. Intanto saluto Francesco Monaci. Allora, ci andremo ad ascoltare dunque Luca Giuoco. L'abbiamo conosciuto come Collettivo Inconscio, ma lui fa arte anche attraverso il suo vero nome. In questa circostanza ha stampato un album dal nome Il Tessitore di Cenere, che tra circa una settimana, 10 giorni, comparirà anche sulle varie piattaforme di riferimento. Suoni non lontanissimi da questi. E allora ci ascoltiamo Desist, la Vergine di Hiroshima. Hiroshi. Thank you. ottimo rientro questo di Luca Giuoco, questa volta proprio con il suo nome vero anziché collettivo inconscio. Si chiama Il Tessitore di Cenere e un vero e proprio viaggio mentale, effettivamente. Secondo me aleggiava anche qui lo spirito dei Coil o degli Psyche TV, insomma, quelli che bazzicavano il tempio della gioventù psichica in quegli anni. A tal riguardo vorrei leggere una brevissima recensione estratta dal portale Versacrum. Si dice appunto che Luca Giuoco è un compositore di musica sperimentale. Si fa menzione appunto di Collettivo Inconscio volume 1. Tessitore di Cenere, dove c'è il coinvolgimento di Gianluca Becuzzi, dove suona la chitarra in due brani Antonio Tognetti, Daniele Santagiuliana, Rosa La Vita, Arlo Bigazzi. E Il Tessitore di Cenere è composto interamente dall'autore, anziché, diciamo, invece del apporto collettivo di Collettivo Inconscio numero 1. Ed è un concept album basato sui pensieri di un individuo che si è convinto di essere la reincarnazione di una vittima del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki. E quindi ci sono le varie influenze che vanno dalla musica contemporanea di Stockhausen fino al kraut rock di Cluster e Tangerine Dream. E è uscito, diciamo, fisicamente in CD. Aspettiamo anche che ci sia un apporto attraverso Bandcamp e piattaforme simili. Andando ancora a Luca Giuoco, sentite che intensità, un'intensità che ci, nella quale ci perderemo anche la prossima settimana, al pari del precedente artista Andrea Doro e il suo progetto. Si va avanti e ci trasferiamo, intanto sono le 21:41 qui a Radio Onda Rossa con prove tecniche di trasmissione. Andiamo in territori di Anesple Sounds Group Label, ormai tutti sanno, etichetta di Raffaele Pezzella. Un album che mi ha colpito particolarmente, questo Songs from an Obscure Matriarchal Tribe di Daria Kazimira e Zura Marakaz, che sono un duo proveniente da Tbilisi, dalla Georgia, e che è una sorta di colonna sonora estratta da un film, il quale film a sua volta è una cronaca di una performance che si è tenuta in un monastero proprio in una città, e andrò a vedere dopo dove. Karmir, eccolo qua, il monastero di Karmir, sempre in Georgia. Quindi un album dalle forti caratteristiche etnico-industriali, un album che si apre con la prima traccia dal nome Confused Mistress e poi Dance of the Healer. Oh. allora uno degli album più interessanti per quanto mi riguarda, di riferimento della Nespresso Sounds Group di Raffaele Pezzella, questo duo proveniente dalla Georgia, da Tbilisi. Le ricordiamo Daria Kazimira e Zura Maracazze, una sorta di tribalismo industriale un po' alla Sturzen, Neubauten, Test Department, ma con forti connotazioni etniche. Voce incredibile che invece in certi toni ricorda la Lisa Gerard della migliore tradizione in parte, ma anche di Amanda Galas se vogliamo. Quindi questa performance praticamente viene da questo film dal nome Rue de la Lune, una performance che vede, oltre a Daria Kazimira e Zura Maracazze, c'è anche Ambragatto Bergamasco, Soy Antova, Maximilian Le Cain, Angelica Santander. E questi sei artisti rappresentano i Rue de la Lune, la guaritrice, la vedova, l'amante, il giullare e l'artista. In una, diciamo, famiglia femminile fuori dallo spazio e dal tempo, che attraversa processi di guarigione onirici nel disperato tentativo di liberarsi dalle dinamiche subconsce che abbracciano più generazioni. Strumenti etnici e non. Grande album questo, Songs from an Obscure Matriarchal Tribe. Saluto intanto Christian che si è accomodato di fronte a me qui negli studi di Radio Onda Rossa, perché è venuto a prendersi la sua scarceranda, la nostra autoproduzione più nota, l'agenda contro il carcere. Quando si parla di tribalismo e anche influenze etniche, si parla anche dell'attuale stato di grazia di Gianluca Becuzzi. E questa tribalità la ritroviamo anche in Black Mantra, che già dal titolo è un ottimo biglietto di presentazione. Album che esce per La Standa, che non è ovviamente l'omonimo magazzino, ma è con i puntini, e quindi è una gloriosa etichetta indipendente parallela alla Silentes. Eccola qua, Dance and the Revelation, Waiting for the Kali Yuga.